ma non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Attorno a noi c'è solo abuso di potere, in ogni terra, in ogni guerra, in ogni faida. Mani che puliscono altre mani, stragi che colpiscono altri esseri umani. Dalla chiesa al Domoro, Falcone e Borsellino, uomini impeccabili dai valori inestimabili. Hanno lottato contro Cosa Nostra e contro dei mulini a vento, ammazzati dentro macchine, fatti saltare in aria con le scorte verso il corridoio che portava dentro il miglio verde. Sono partiti da niente, sono arrivati alla fonte dei problemi di mafia irrisolti, portati fuori strada sempre più volte, con false tracce e inutili risvolti. Sulla via che conduce verso il centro dell'inferno si sono trovati sempre più vicini all'orlo, aiutati da nessuno, traditi dallo stesso sistema giudiziario che protegge e finge una legge migliore. Solo giudici corrotti con soldi sporche di rapine, omicidi, assassini e giochi affini. Se per fare un albero dico ci voglio un seme, un uomo onesto non si costruisce in poche sere. Qua non ci conviene ma si parla in eccesso, in buste di plastica rinchiuso gli sogni adesso. Speri con gli occhi di un neo confesso. Se per fare un albero dico ci voglio un seme, un uomo onesto non si costruisce in poche sere. Qua non ci conviene ma si parla in eccesso, in buste di plastica rinchiuso gli sogni adesso. Speri con gli occhi di un neo confesso. Sempre sotto copertura, pentiti di mafia sotto stretta clausura. Più le persone muoiono, più gli avvoltoi esultano, più i loro figli si armano. Comandati dai principi di un piccolo casale, mascherati come fosse carnevale. Qua tutta una realtà virtuale. Sopra colate di cemento solido, sotto scorrono fiume di sangue liquido. Un virus che colpisce tutte le città, un male inesorabile che non ha identità. Famiglie che reclamano la loro libertà, necessità di poter vivere abolendo quel silenzio, di poter decidere se dare a tutto un senso. Uomini onesti, crimini ed eccessi, la regola del giorno è la parola arresti. Stretti nella morsa del tempo, l'Italia sta subendo, perdendo, incassando, stesa messa al tappeto da un cancro inesorabile. Non è più accettabile, ora è il tempo di reagire, perché è finito il tempo di aspettare. Se per fare un albero dico ci voglio un seme, un uomo onesto non si costruisce in poche sere. Qua non ci conviene ma si parla in eccesso, in buste di plastica rinchiuso gli sogni adesso. Speri con gli occhi di un neo confesso. Se per fare un albero dico ci voglio un seme, un uomo onesto non si costruisce in poche sere. Qua non ci conviene ma si parla in eccesso, in buste di plastica rinchiuso gli sogni adesso. Speri con gli occhi di un neo confesso. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi.